nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Bentornati, bentornati a Nessuna è Perfetta, che come sapete anche in queste settimane di lockdown funziona da remoto ovviamente, e ovviamente sta con tante antenne tese a captare quali sono i problemi che gravano sulle donne che lavorano, perché è un po' il nostro fond de commerce, il donne e il lavoro. E il problema di cui ci siamo già occupati nelle settimane scorse, ma che torna insistente, è che con la riapertura, con la fase 2, molte madri lavoratrici saranno costrette a scegliere tornare al lavoro e quindi allo stipendio anche, diciamola tutta, oppure restare a casa con i figli perché le scuole in Italia non riapriranno. (828) 1212 il numero della nostra casella vocale, e arrivano veramente tantissimi messaggi. Io vi ringrazio tutti perché è una dimostrazione che in 5 anni abbiamo proprio creato una bella comunità di ascoltatori di Nessuna è Perfetta. Continuate a farci sentire la vostra voce, le vostre opinioni e i vostri commenti. Tra poco sentiremo tante delle vostre, alcune, non tanti perché tutti non si possono far sentire, ma alcune delle vostre voci. Intanto torno al tema di questa domenica. L'emergenza che è stata innescata dall'epidemia di Covid-19 è un'emergenza scuola, perché dai bambini dell'asilo agli studenti che faranno la maturità ci sono davvero degli effetti seri sulla loro preparazione, sulla capacità di socializzare, sul rapporto con gli insegnanti, che non può essere limitato a vederli su uno schermo un'ora o due al giorno quando va bene. Nel mondo sono 1.600.000.000 bambini e ragazzi di 165 paesi che hanno interrotto la scuola. Questi sono i dati forniti dall'UNESCO il 27 marzo scorso, e in Italia sono oltre 9 milioni. C'è un problema nella loro formazione? Avranno delle lacune? Come saranno colmate? Ecco, secondo il New York Times, che riferisce di uno studio condotto dalla Northwest Evaluation Association, bene, pensate, questo lungo periodo di assenza dalla scuola potrebbe portare, per i ragazzi americani, perché lo studio si riferisce a loro, a una perdita nella capacità di lettura del 70%. Non vogliamo essere così pessimisti, non vogliamo dire che alcuni dei nostri ragazzi corrono lo stesso rischio, ma certamente delle lacune gravi nella capacità di lettura, nella matematica, nelle altre materie resteranno. E infatti in tutti i paesi si sta discutendo del come rientrare a scuola, non del quando, perché il quando è deciso. In Francia si riparte l'11 maggio, sia pure gradualmente, Danimarca e Svezia hanno già riaperto, l'Olanda, notizia di questi giorni, riapre. In Germania organizzano la riapertura con determinate precauzioni, per esempio installare una sorta di plexiglass davanti alla cattedra del professore e fare in modo di garantire la distanza tra gli studenti che dovranno indossare le mascherine. In Gran Bretagna il tema è all'ordine del giorno, la BBC prevede che possano riaprire le scuole il 1° di giugno, le scuole che continueranno perché non finiscono ai 1° di giugno come in Italia, e uno dei sindacati degli insegnanti, l'Association of School and College Leaders, ha lanciato un allarme. Se gli studenti degli ultimi anni delle superiori non torneranno a scuola, rischiano di perdere l'anno e di doverlo ripetere. Come stesso allarme che era stato lanciato anche da Macron nel suo discorso del lunedì di Pasqua, quando aveva detto: dobbiamo riaprire la scuola perché ci siamo accorti che c'è un crescente gap, una crescente diseguaglianza tra quegli allievi che possono usufruire di lezioni private, di un aiuto a casa, e i tanti che invece non ce l'hanno. Il dibattito È aperto ovunque. In Italia si parla solo della maturità, come se la scuola fosse ridotta soltanto a questo tema della preparazione di tutti gli altri. Evidentemente non importa a nessuno, si dirà, bisognerebbe sanificare le scuole e non ci sono i mezzi. Credo che forse sia questo uno dei problemi. In effetti, gli unici due paesi, riflettiamoci, che non riaprono le scuole fino a settembre sono la Spagna e l'Italia, cioè i paesi con una situazione economica drammatica. Gli altri evidentemente hanno inserito tra le loro priorità le riaperture delle scuole anche perché si rendono conto che sul lungo periodo ne ricaverebbero dei danni. E da noi invece evidentemente questa riflessione non è stata fatta, o se è stata fatta, la drammatica situazione economica ha deciso di porre al primo posto altre priorità. Abbiamo su questo tema, come vi dicevo, tantissimi, tantissimi WhatsApp vocali che ci avete inviato all'828 12 12. Sentiamone qualcuno insieme. Buongiorno, sono Susanna. Bisognerà sorridere, però secondo me il tema della scuola è veramente serio ed è devastante come la scuola proprio sia assente come interlocutore in questo periodo, mentre per fortuna lei se ne occupa e quindi le chiedo di continuare veramente. Io non capisco come sia possibile che la scuola chiuda, fisica o digitale che sia, all'inizio di giugno. I genitori devono tornare a lavorare, le madri cosa faranno? C'è un ragazzino delle medie in casa da solo, cosa fa? Non può neanche fare lezioni facoltative. La scuola deve esserci. Se non c'è la scuola è impossibile. Come facciamo nel nostro futuro? E la voce degli insegnanti non si sente. Sono un docente di una scuola secondaria superiore di Milano. Nella mia scuola la didattica a distanza è stata attivata da subito, anche con un notevole impegno da parte degli studenti, famiglie e soprattutto da parte nostra, dei docenti. L'assenza di un contatto diretto con i ragazzi, però, devo dire la verità, si fa sentire. La voglia di tornare a scuola è molta, anch'io ovviamente vorrei che riaprisse subito, ma il grosso problema è dovuto a quanto hanno rubato alla scuola in questi anni. Le riforme non dettate da una vera motivazione didattica, ma piuttosto da un desiderio di risparmio, hanno prodotto ben più danni che benefici. I nostri ambienti non sono mai stati soggetti a vere ristrutturazioni. Il risultato è che oggi ci troviamo con aule di poco più di 25 circa metri quadri e, quando va bene, con un numero di studenti che in media oscilla tra 25 e 30 per classe, che è una cosa assurda. Mi permetto di porre alcuni spunti, a proposito del tema trattato durante la sua trasmissione di oggi, ovvero sulla scuola. In primo luogo, le classi definite, diciamo, pollaio italiane non consentono un'organizzazione ottimale del rientro. E a questo punto presumo che vada fatta una riflessione per il futuro. Non sarebbe magari il caso di ridistribuire gli spazi? Mancano poi degli investimenti che consentano agli istituti di dotarsi di piattaforme tecnologiche che in casi come questo si rivelano direi fondamentali. Infine, la preparazione dei docenti nell'affrontare questa situazione penso che non sia particolarmente adeguata in generale. Un plauso comunque alla buona volontà di alcuni e una riduzione di stipendio a chi invece si è limitato a mandare compiti prettamente via mail. Le mie congratulazioni comunque per il suo stile di conduzione e per i temi trattati. Io ringrazio chi come dire, sostiene questa, che non è una battaglia che io faccio per questioni personali. Non ho figli che vanno a scuola, mia figlia l'ha finita da un pezzo, ma sono preoccupata per il mio paese, per il tipo di effetto che tutti questi mesi di assenza dalle scuole produrranno in futuro sulla preparazione dei ragazzi che poi tra qualche anno dovranno vedersela con i loro competitor, almeno europei. E un gap nella formazione è difficile da recuperare. Quindi grazie a tutti gli ascoltatori di Nessuna è Perfetta che ci seguono e sostengono queste preoccupazioni, e anche quelli che fanno giustamente notare come non si tratti di una cosa facile da risolvere. Ne siamo assolutamente consapevoli. Allora, il mattino all'oro in... Ah, dai, troppo banale. Il buongiorno si vede dal... No, questa è anche peggio. Che roba è? Cambiamo registro. 24 mattino vi aspetta con chiarezza per districarsi in un mondo complesso, obiettività perché il giusto confronto tra opinioni non macchi la realtà dei fatti e serietà, senza rinunciare alla giusta dose di ironia. Ah, certo, e senza frasi fatte. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con tutto quello che serve per sapere cosa si muove nel paese e fuori, analizzarlo e capirlo. Con me ci saranno Paolo Mieri dalle 7.30 nella rassegna stampa e Maria Latella dalle 8.15. Vi aspetto alla rassegna stampa per commentare con voi i quotidiani del giorno. Sono qua per fare domande, possibilmente quelle che fareste voi, ma anche per ascoltare le risposte, approfondire. Lo faremo, promesso, senza pregiudizi. Naturalmente su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno a Nessuna è perfetta. È il momento della nostra Sunday Girl. Ben ritrovata, bentornata Elena Sofia Ricci. Ciao, buongiorno a tutti quanti. Ben trovata. E... grazie. Torna anche in TV perché è la protagonista della nuova serie di Rai 1 Vivi e Lascia Vivere, che da giovedì ci tiene compagnia per 6 puntate con la regia di Pappi Corsicato e... la presenza nel cast anche della figlia maggiore di Elena Sofia Ricci, Emma, di madre sì. In figlia. Ora perché te la conosci bene, ma sì, Emma fa una cosa molto piccola rispetto agli attori giovani che fanno i miei figli, quindi non deve avere più spazio degli altri, non è giusto. Però si è fatto il provino per fare Laura, il mio personaggio da giovane, quindi fa me da ragazza, chiaramente sai... un po' la somiglianza, un po' i tratti del carattere, no? Quel modo di essere le hanno permesso di passare il provino e quindi è stata data a lei la parte. È stata una cosa molto emozionante per tutte e due, per me vederla così emozionata e preoccupata di sbagliare così. Però ecco, in bocca al lupo a questa esordiente. Dunque, il tema di Vivi e Lascia Vivere è, ahimè, drammaticamente attuale perché la protagonista è una donna che ha perso il marito e ha perso il lavoro ahimè, questa parte del perdere il lavoro è una cosa che ci preoccupa tantissimo perché sentiamo previsioni appunto inquietanti su quante aziende saranno in grado davvero di ricominciare. Non parliamo dello spettacolo, che saremo gli ultimi a rialzarci, noi non possiamo lavorare in regime di distanziamento sociale, no? Quindi io credo che per noi prima di un anno non sarà possibile fare niente. O poco, chissà che. Come si fa per esempio nel mondo dello spettacolo tutto l'indotto, cioè i tecnici delle luci, l'illuminazione, le sarte, le costumiste? Non si fa, la gente non lo sa, ma noi lavoriamo in 50-60 persone simultaneamente, non siamo soltanto noi gli attori che siamo davanti e un regista dietro, insomma, l'operatore con l'assistente operatore sono attaccati a 30 centimetri, delle volte noi attori per dare lo sguardo all'attore che è in primo piano siamo appiccicati alla telecamera, alla macchina da presa, quindi è un lavoro il nostro che non si può fare in questo regime e quindi io credo che non lo faremo fin quando non ci diranno che o non ci sarà un farmaco, un vaccino, qualcosa che possa essere fatto in sicurezza. Pertanto per noi sarà veramente dura, immaginiamo anche quanto sarà difficile per il teatro, la musica, tutto lo spettacolo dal vivo, la danza, i danzatori come fanno a danzare a distanza, cioè sì, si può fare una coreografia tutta speciale, ma insomma non potrà essere così in eterno, e i teatri e i cinema non potranno essere riempiti, insomma la situazione è difficile, ma per tornare a Vivi e Lascia Vivere, è incredibile, noi quando l'abbiamo girato mai avremmo immaginato uno scenario del genere per l'andata in onda, no? E quindi è incredibile quanto attuale sia, quanto possa essere forse di conforto e di stimolo anche a qualcuno, no? Perché Laura è una donna che, avendo perso il marito, avendo perso il lavoro, però ricomincia, eh? Sì, sta per soccombere, c'è un momento in cui una donna deve decidere se crollare definitivamente o tirarsi su. Le donne hanno questa forza, questa spinta creativa che ci è innata, noi siamo tutte madri, se non altro potenziali, no? Quindi lei si rialza, lo fa per i suoi figli, lo fa per se stessa, per la sua dignità di donna, e si rimbocca le maniche, si reinventa il lavoro, lo trasforma, lei sa fare una cosa molto bene, il tartù speciale, e decide, coinvolgendo un gruppo di amiche e la cognata, di creare questa piccola attività di sartù, di street food, che girerà allegramente per le vie di Napoli, creando una vera piccola ricchezza. Quindi ecco, speriamo di poter essere anche un po', dare uno spunto, un suggerimento a quanti hanno perso il lavoro e possono, attraverso questa serie, questa, così, non solo ritrovare il coraggio, la forza, la voglia di rialzarsi, e un po' di energia e anche un po' di divertimento e anche un po' di compagnia, chiaramente, che terremo per 6 serate, ma anche qualche spunto per rialzarsi, ecco, avremmo molto bisogno. Ce n'è molto bisogno, infatti. Sì. A proposito dell'essere madre, abbiamo parlato di Emma, la tua figlia più grande, che esordisce come attrice, ma tu hai anche figlia più piccola, Maria, che va a scuola. Cosa pensi del fatto che le scuole in Italia, unico paese europeo insieme alla Spagna, non riaprano? Guarda, sinceramente stavo ascoltando prima anche vari telegiornali, io penso che sinceramente mi sento di dire che stanno facendo bene, i ragazzi stanno comunque un po' lavorando in smart working, Maria fa interrogazioni e tutto quanto online, si sono attrezzati, certamente non tutti hanno queste possibilità, però i professori sono bravi, si stanno adeguando a chi non ha tutti i mezzi per poterlo fare. Adesso al momento l'emergenza più importante è la salute, non possiamo scherzare, figuriamoci sulle spalle dei nostri figli, che tra l'altro potrebbero portare in casa la malattia, perché loro sono un pochino più... Certo, oppure contagiare gli insegnanti, che è l'altro aspetto di cui dobbiamo preoccuparci. Quindi insomma io penso che la cautela sia giusta, vediamo cosa succede nei paesi che sono più ottimisti. Noi siamo stati primi a dare il buon esempio in Italia, non è stato immediatamente seguito, no? E quindi se qualcuno avesse guardato per una volta al modello italiano, siamo stati un modello positivo, ecco. E in questo momento mi sento di dire che la cautela è d'obbligo, perché insomma sulla salute non si scherza, però non si scherza neanche con la crisi economica, perché tra un po' aumenteranno le persone che muoiono di fame rispetto a quelle che muoiono di Covid-19, quindi bisogna anche stare attenti a quello. È un momento molto difficile, non vorrei per nessun motivo al mondo essere un politico in questo momento, ecco, o al governo. Uno che deve prendere delle decisioni. Grazie a Elena Sofia Ricci, seguiamo su Rai 1 con Vivi e Lascia Vivere, la serie TV della quale sei protagonista, e grazie per essere tornata a Nessuno è Perfetta. Buona domenica. Grande piacere, buona domenica a tutti voi. A Milano si farà l'esposizione universale del 2015, si farà, sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei collegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo. La vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da un centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock. In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Nessuna è perfetta. Diamo adesso il via alla nostra staffetta di voci e proposte per la riapertura delle scuole e il primo nostro, quello che apre questa staffetta, il nostro primo ospite è Maurizio Baruffi, dirigente SEA, genitore di una ragazza di 13 anni. Ecco Maurizio Baruffi che ha lanciato sul sito l'inchiesta una proposta per consentire il rientro a scuola di tanti bambini e ragazzi. Si tratterebbe di una via di mezzo, far tornare a scuola gli studenti di quinta elementare, terza media e i maturandi. Buona domenica Maurizio Baruffi, ce la spiega domenica, molto buongiorno. Sinteticamente e come si potrebbero superare diciamo gli ostacoli che si frappongono alla riapertura delle scuole? Ma l'idea è quella appunto di far terminare il ciclo scolastico di quelli che sono in quinta elementare, in terza media o in quinta superiore in un modo un po' più vicino alla normalità rispetto alle lezioni a distanza che tutti stanno facendo, devo dire anche bene, in modo molto attento. E siccome giustamente ci sono un sacco di preoccupazioni dal punto di vista sanitario, dal punto di vista organizzativo, e però tra 0 e 100, dico sempre io, ci sono anche dei punti in mezzo, piuttosto che restare a 0, cioè riprendere le scuole a settembre e lasciare tutto il tempo insomma per organizzarsi, piuttosto che restare a 0 forse sarebbe meglio riuscire a sperimentare una riapertura parziale solo per le classi che vanno a terminare appunto il ciclo scolastico e quindi hanno o un esame da affrontare o anche semplicemente dei compagni da salutare che poi nei prossimi anni scolastici non incontreranno più, no? E anche dei docenti da salutare, e quindi partire da loro è un criterio per scegliere un numero ridotto diciamo di studenti ed è un criterio per avviare una sperimentazione. E poi si potrebbe anche intervenire magari non facendoli andare a scuola tutti assieme, magari suddivisi a metà, non so, io facevo l'esempio come era una volta l'elenco del telefono di Milano, no? Dalla A alla L si va il lunedì, dalla M alla Z si va il martedì per esempio. Come ecco, si faceva negli anni 60 quando eravamo alle elementari in tantissimi e non c'erano classi per tutte. Baruffi, un'ultima domanda e sempre una sintetica risposta. Lei ha capito qual è l'ostacolo principale alla riapertura delle scuole in Italia? C'è chi dice mancano i soldi per la sanificazione, c'è chi dice ci sono le resistenze degli insegnanti, i quali ne hanno scritto anche tanto a me protestando, dicono ma noi siamo anziani perché dobbiamo correre il rischio di ammalarci. Secondo lei quali sono i problemi che impediscono all'Italia di fare quello che tutti gli altri paesi europei, a eccezione della Spagna, hanno deciso di fare? Io credo che ci sia un mix di incapacità organizzativa e un po' di mancanza di coraggio. Nessuno vuole esporre a rischi sanitari nessun altro, a partire dai nostri ragazzi, come dire, ma anche agli insegnanti. Si tratta però di dare risposte eccezionali a un evento eccezionale, essere un po' più duttili, essere un po' più elastici e cercare di trovare delle soluzioni, che non è detto che debba essere il ritorno a quello che si faceva prima, no? Però la sperimentazione è difficile, richiede coraggio e tanta disponibilità. E anche senso di responsabilità pensando a quelle che sono le generazioni future. Grazie Maurizio Baruffi, grazie. Grazie a lei. Buona a domenica. Continua la nostra staffetta e torna a Radio 24, dove proprio ha lanciato il suo allarme di madre, prima ancora che di parlamentare, l'onorevole Carla Ruocco, presidente della commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche, ma qui a nessuna è perfetta, mamma, soprattutto mamma. Buona domenica Carla Ruocco. Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, onorevole, lei ha capito perché gli ostacoli che sono comuni a tutti i paesi, cioè il problema di sanificare le scuole, di proteggere gli insegnanti, soprattutto se anziani, di garantire la sicurezza e la distanza tra gli alunni, tutti i problemi che si sono posti, si stanno ponendo gli altri paesi, ebbene in Italia sono considerati insormontabili e quindi impediscono di tornare a scuola prima di settembre? Guardi, io sono sicura che anche in Italia si stia pensando ad una soluzione anche prima di settembre che metta assolutamente in sicurezza i ragazzi, i professori e tutto il personale scolastico. Detto questo, io mi rifaccio anche ad una lettera molto tenera che ha scritto un bimbo che appunto si è rivolto poi al Presidente della Repubblica, in cui ha detto ma se si aprono le aziende perché le scuole non possono riaprire? È una domanda molto semplice, però alla fine deve porre effettivamente un quesito di fondo. L'economia non deve venire prima della cultura e quindi se ci sono delle condizioni che possono essere praticate in sicurezza giustamente per le aziende, perché quelle stesse condizioni non possono, ovviamente mutatis mutandis, applicare anche ad un'istituzione come la scuola? La cultura non viene dopo. Onorevole Carla Ruocco, lei ha ipotizzato anche delle soluzioni alternative, perché in situazioni di emergenza, diceva prima Maurizio Baruffi, bisogna trovare soluzioni di emergenza. Per esempio, una delle proposte che mi sembra lei abbia comunicato è quella di utilizzare per gli studenti, per le scuole, grandi spazi che al momento non vengono utilizzati, per esempio uno a Roma, l'auditorium. Sì, infatti. Allora, intanto sarebbe auspicabile e giusto che lo Stato intervenisse ovviamente sulle imprese anche mediante contributi a fondo perduto, perché il momento è disastroso. A fronte quindi di questa forte contribuzione che lo Stato comunque deve garantire, è giusto che dall'altra parte magari ci sia sinergia ed alcuni spazi possano essere utilizzati per delle funzioni pubbliche. Pensavo per esempio esempio, ecco, lanciavo l'idea proprio dell'auditorium, che è uno spazio enorme, peraltro molto arieggiato, ventilato anche tutta una struttura esterna, e che purtroppo non potrà essere utilizzato nel breve per la sua vocazione naturale, tra virgolette, però deve essere un polmone culturale, quindi come poter continuare ad utilizzarlo come polmone culturale, diciamo un po' con una sinergia tra cultura ed istruzione, e far sì che i bambini, i ragazzi possano usufruirne nelle migliori condizioni per appunto istruirsi e quindi attivare un circuito. L'ultima cosa che vorrei chiedere a Carla Ruocco, lei è esponente autorevole e noto del Movimento 5 Stelle, vi siete sentite con la ministra del suo stesso movimento, Lucia Azzolina, vi siete parlate, che tipo di problematiche il ministero sta cercando di risolvere? Perché uno dei problemi, mi sembra di capire, è anche un po' la resistenza di alcuni sindacati degli insegnanti. Citavo le associazioni di insegnanti di altri paesi che hanno fatto dichiarazioni pubbliche di preoccupazione per la formazione dei loro allievi. Molti insegnanti ci scrivono, e abbiamo fatto sentire anche i loro WhatsApp, perché sono preoccupati per lo stesso motivo: come arriveranno questi ragazzi poi all'anno prossimo, al prossimo anno scolastico. Lei ha parlato con la ministra Azzolina? Ma guardi, sì, ho avuto anche modo, e sicuramente impegnata al 100% sul punto. Gli insegnanti, ovviamente il mondo degli insegnanti, lo dico più che altro per esperienza diretta ovviamente, ma non è tutto uniforme. Ci sono degli insegnanti bravissimi che si stanno impegnando al massimo, anche di più del consueto, proprio perché sono molto preoccupati, e purtroppo, come in tutte le categorie, c'è una parte che, non essendo obbligatoria per esempio la didattica a distanza, tende a far gravare tutto il peso sulle spalle di quelli invece molto solerti, e quindi questo ovviamente bisogna, secondo me, interpretare e dare soddisfazione proprio a quella parte sana, enorme degli insegnanti che stanno dando il massimo e che sono preoccupati, e anche in quest'ottica cercare di riattivare al più presto il servizio scolastico nella sicurezza massima. A tutti gli insegnanti che si stanno impegnando davvero, come dice Carla Ruocco, al massimo, va il nostro sostegno e anche il nostro grazie, perché sì, dal loro impegno dipende se questo gap, questa voragine che si crea nella formazione dei ragazzi che non stanno andando a scuola ormai da mesi e che non andranno a scuola per mesi, ecco, dalla loro abnegazione, dai loro sforzi dipende molto. Grazie, sì, l'onorevole Carla Ruocco. Vorrei aggiungere sì, una notazione, senza nulla togliere alla didattica a distanza, però non mi si venga a dire o comunque a far capire e comprendere che è arrivata comunque a tutti gli studenti e che va tutto bene, perché la didattica a distanza è un mezzo temporaneo, emergenziale, ma poi comunque bisogna pensare ad istruire, a creare uomini e donne che siano in grado poi di sostenere il futuro molto molto importante e complesso che attende tutti. Grazie a Carla Ruocco, che è stata con noi in questa staffetta di Nessuno è Perfetta. Ci fermiamo qualche secondo, torniamo subito da voi. Nessuna è perfetta. La nostra staffetta continua, e adesso con noi c'è Daniela Poggio, comunicatrice, manager e autrice di una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e, per conoscenza, Vittorio Colao, che presiede questa task force dedicata alla fase 2 e alla fase 3. Daniela Poggio, questa staffetta di Nessuno è Perfetta cerca di far capire perché è un danno serio non riaprire le scuole in Italia e posporre tutto a settembre contando su quel che si può fare online. Lei come la pensa? Buongiorno, intanto ciao Maria, buongiorno a tutti gli ascoltatori, e volevo solo precisare che la lettera è stata scritta insieme ovviamente ad altre persone, non soltanto da me, questo mi sembrava giusto ricordarlo. Allora, io penso che sia stato sicuramente una superficialità quella di pensare di riaprire un paese tenendo le scuole chiuse, che non significa automaticamente riapriamo le scuole, ma significa poniamoci il problema. È chiaro che la nostra società è costruita con un sistema che, in cui i bambini vanno a scuola e i genitori, quando lavorano entrambi, vanno al lavoro. Ed è evidente che non avere l'opportunità di continuare all'interno di questa architettura della società porta a delle complicanze. Io penso che la mancanza di attenzione e di cura sia soprattutto in questa dimenticanza, e quindi non dobbiamo ragionare soltanto su quando, ed è stato detto anche da più parti, aprire le scuole, dobbiamo ragionare da subito su come riaprirle, soprattutto partendo da bambini, ad esempio, e sono molti, soprattutto nelle regioni del Sud Italia, che a scuola facevano un unico pasto completo, quindi non si tratta soltanto di disagi per le famiglie, ma si tratta anche di disuguaglianze sociali che devono essere attentamente conosciute e ascoltate da parte di chi prende delle decisioni. Ecco, tra l'altro, Daniela Poggio, nessuno sottovaluta la complessità del tema, nessuno sottovaluta che servono un sacco di soldi per sanificare le scuole, che servono delle misure di protezione degli insegnanti, perché sono gli insegnanti quelli che sono più a rischio anche per l'età. Nessuno sottovaluta niente. Quello che preoccupa un po' è che, mentre il dibattito è accesissimo su come tornare a scuola in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, da noi di scuola si parla come se esistesse solo il problema della maturità, ma tutti gli altri, che dalla prima elementare al penultimo anno delle superiori a scuola non ci stanno andando, ecco, non esistono. Oppure ci raccontiamo la favola che le lezioni online, per quelli che riescono a farlo, siano come dire un'efficace sostituzione, il che a mio parere non è. Daniela Poggio, che cosa pensate di fare? Sì, allora, noi siamo un gruppo di donne di diversa estrazione, quindi ci sono manager, imprenditrici, donne con un passato, diciamo un'esperienza più dichiaratamente femminista, economiste, professoresse. Ci siamo trovate un po' tutte all'interno di una chat che vive da circa un anno, ma che non rappresenta in realtà un movimento strutturato, è proprio una chat, e alla lettura della nomina della task force governativa abbiamo visto 4 donne su 17, 18, sono, sì, insomma 17 uomini, e abbiamo detto tutte insieme basta. È stato proprio un grido corale, ed era il giorno di Pasqua, quindi tra capretti e tra, diciamo, i pranzi ci siamo messe lì, abbiamo scritto questa lettera in cui abbiamo ricordato che le donne in questa crisi ci sono e ci sono state e ci continuano ad essere. Ricordo, e lo ha detto anche Barbara Stefanelli recentemente in un editoriale, che 2/3 degli operatori sanitari è donna, l'83% del personale di cassa, quindi parliamo di tutti i negozi che sono tuttora aperti, è donna, il 90% dell'assistenza domestica è svolta, ahimè, diciamolo, da donne. Ora, le donne non si trovano però nei luoghi decisionali. Questo non è solo un tema di rivendicazione di poltrone o di ruoli, questo è un tema che non si restituisce una visione corretta della società, soprattutto da certo, parte perché di chi... ci sono punti di vista che non tengono conto di, appunto, una parte importante che mette in moto la società. No, perché se tu sei un uomo di potere, di solito intanto non hai problemi di tutti gli altri perché ti risolvono tutto. Probabilmente hai figli adulti o grandi che hanno studiato all'estero, si trovano all'estero, quindi non ti arriva proprio la percezione di che problema può essere avere dei figli piccoli e dover tornare in un negozio perché fai la commessa e quel negozio riapre, no? C'è tutto un mondo che vive in una bolla, che prende decisioni senza sapere quali sono i problemi della moltitudine di persone che non vive nella bolla medesima. E dunque, Daniela Poggio, grazie per averci portato un ulteriore elemento di realtà, il tema delle decisioni che sono prese da uomini senza capire che fuori c'è tutto un mondo che vive in modo diverso, è un tema, ahimè, che pare anche qui inscalfibile. Grazie Daniela Poggio, buona domenica. La nostra staffetta continua e abbiamo appunto ospitato opinioni diverse, ci sono arrivati i WhatsApp vocali di insegnanti, abbiamo ascoltato un padre manager preoccupato per questa prosecuzione ad libitum della chiusura delle scuole, un padre che appunto ha fatto una proposta, abbiamo ascoltato il punto di vista di una mamma in politica, Carla Ruocco, abbiamo ascoltato il parere di una manager, Daniela Poggio, che è preoccupata anche per il fatto che le decisioni le prendono gli uomini e sembrano inconsapevoli del fatto che c'è un lì fuori dal palazzo c'è un mondo che si confronta con delle problematiche che evidentemente vengono ignorate. E però Elisabetta Ambrosi, giornalista e mamma, la prima cosa che ti vorrei chiedere è la petizione che come mamme, come genitori avete lanciato e che appunto riguarda la chiusura delle scuole, tiene conto delle obiezioni ragionevoli che vengono poste alla riapertura, prima fra tutte le garanzie di protezione della salute di insegnanti e di allievi? Ma guarda Maria, questa petizione nasce a monte da una cosa ancora più importante, cioè è scaturita da un sentimento di stupore veramente grande di fronte al silenzio che il governo ha tenuto in questi mesi rispetto alle famiglie, cioè il problema su cui noi mettiamo appunto la nostra attenzione è la mancata comunicazione alle famiglie, la scarsa trasparenza, il fatto che le famiglie siano state tenute diciamo all'oscuro. Io ti dico solo che non so cosa succederà nei prossimi giorni, ma ad oggi noi sappiamo che le scuole chiudono a settembre perché si dice, perché lo ha detto qualche scoop di qualche giornale, ma non ci sono state vere e proprie comunicazioni ufficiali. Di fatto questa mancata comunicazione appunto tra il ministro e il governo e le famiglie per noi è semplicemente allucinante, perché noi non chiediamo che le scuole riaprano, noi chiediamo di sapere quali sono i motivi reali perché le scuole non riaprono, cioè mi spiego meglio, i motivi sono clinici, e allora se sono clinici vogliamo sapere i numeri e vogliamo sapere perché altrove, in altri paesi le scuole riaprono, allora loro hanno numeri diversi probabilmente, oppure sono di tipo pratico organizzativo. Se sono di tipo pratico organizzativo, le classi pollaio, gli istituti che non adeguati, va bene, ma questo va detto, va specificato, è molto importante, perché la nostra domanda è: se fossero motivi principalmente di tipo organizzativi, perché in nome dell'autonomia scolastica, che oggi vige su qualsiasi aspetto, in primis appunto la didattica, come abbiamo potuto vedere con esiti anche molto contrastanti e non positivi, allora perché se io ho una scuola che sta in una zona di campagna, in una regione dove ci sono bassissimi contagi, perché non posso riaprire prima, appunto magari facendo un'alternanza, magari con criteri rigorosi? Cioè, noi vogliamo Elisabetta Ambrosi, si dice che una delle ragioni per cui le scuole non vengono riaperte in Italia, e guarda caso non vengono riaperte nemmeno in Spagna, è perché in questi due paesi mancano i soldi per procedere a tutte quelle diciamo procedure di garanzia per la salute che altri paesi evidentemente meno in crisi economica di quanto non siamo noi possono invece introdurre. Avete idea se questa ipotesi, diciamo che è poi economica, sia all'origine della mancata riapertura delle scuole in Italia? No, non lo sappiamo, e questo è il punto. Non ci viene detto niente, siamo tenuti all'oscuro. Io per lavoro ho intervistato una serie di famiglie, anche famiglie che abitano a Palermo, in quartieri poveri, e tutte le madri sono... l'incertezza genera panico, l'incertezza genera confusione. Cioè, non c'è stata nessuna chiarezza né sui motivi reali di questa scelta, né nessun aiuto e chiarezza sulle conseguenze, perché sarà stato già detto, l'avete già detto, ma appunto le conseguenze di una riapertura economica, ma di una chiusura delle scuole, sono semplicemente assurde. Cioè, questo è un binomio che in altri paesi sarebbe impensabile, diciamo, scindere. Questo perché semplicemente, appunto, è stato detto in mille modi, i bambini dove verranno messi? Cioè, Elisabetta Ambrosi, ho una domanda sì, per te finale, ed è sì, una domanda che coinvolge un po' anche il nostro lavoro di giornalisti. Ora, qui a Radio 24 ne abbiamo parlato costantemente, questa è la terza puntata di Nessuna Perfetta che dedichiamo al problema donne che lavorano o mamme che devono restare a casa perché le scuole sono chiuse, grande punto interrogativo. Radio 24 venerdì ha dedicato tutta una giornata al tema della scuola, quindi siamo molto sensibili, ma tu trovi analoga attenzione in generale sui media? Perché qualcuno osserva, ma dice, della scuola si parla soltanto per la maturità, come se fosse solo la maturità il problema, e tutti gli altri bambini e ragazzi che restano con delle gravi lacune, degli altri non importa nulla. Come si stanno comportando i media secondo te? Capiscono che è un tema che riguarda tanti e che riguarda il futuro della preparazione dei ragazzi, o fanno finta di niente? Ma io sono sempre molto critica anche verso i media, spesso ho scritto, forse lo sai, cioè si fa presto a criticare la politica, ma anche noi che facciamo informazione spesso la facciamo molto male, anche su altri temi, penso per esempio all'ambiente e altre cose. Quindi secondo me questo tema non è stato trattato in maniera adeguata. Piano piano, con grande lentezza, sono cominciati a uscire dei pezzi, io li sto monitorando, li sto seguendo, qua e là c'è grande attenzione per esempio più nel mondo cattolico o in giornali, anche per esempio nei femminili, i grandi giornali, tra virgolette, grandi, nel senso di grandi numeri, sinceramente no, anche loro stanno un po' come dire, schiacciati sulla cronaca, schiacciati appunto sulla maturità, ma non schiacciati sulla riapertura dell'azienda, ma di fatto non si è aperta una vera grande discussione pubblica su questo tema, mentre in Francia si è aperta, mentre altrove si è aperta. Ci vuole una grande discussione pubblica su questo tema, che è un tema importantissimo. E noi cercheremo di tenerlo acceso, anche se pare che in realtà un po' di silenzio non dispiacerebbe a molti. Grazie Elisabetta Ambrosi, giornalista e tra coloro che hanno firmato una petizione che poi ha raccolto migliaia di firme di genitori. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e che ci avete fatto sentire la vostra vicinanza con un sacco di messaggi vocali. Potete ancora commentare con noi all'828 12 12. Nessuna è perfetta torna domenica prossima e riascolteremo alcuni dei messaggi che ci state mandando oggi, mentre se vorrete da lunedì al venerdì come sempre alle 8:20 su 24 Mattino con Simone Spezia ci potremo ritrovare. Un grazie a tutta la squadra che ha lavorato a questa puntata di Nessuna è perfetta, grazie a Filippo Aureggi e Alessandro Chiappini in regia, e in redazione Gaia Romani. Buona domenica, ciao!